Blabidi. Signore e signori, questo è il podcast qualunque. Telephone to speaking about in the theater. Opinioni, fatti e idee. Io sono pugliese, ho deciso di rimanere single perché considero le donne una merda. Si scontrano nell'arena del libero pensiero. Thor è il nero di Satana. Conducono Morris, Locke e Danda. E benvenuti all'episodio numero 7 del podcast Qualunque. Un episodio in cui noi abbiamo deciso di comunicarvi un sacco di novità. Prima di tutto vi spieghiamo come mai arrivano queste novità, quindi state con noi, sopportate questi due minuti di shill. Allora, YouTube sta cambiando, come al solito, valorizza tantissimo i minuti e quindi siamo obbligati, fra virgolette, a continuare a fare i nostri video lunghi che piacciono a YouTube e siamo contenti di quello. Ma dobbiamo anche farci conoscere, quindi è nato in automatico il canale, la playlist del Best Of, che vi invitiamo a condividere, è molto importante per aiutarci, dove metteremo delle clip molto veloci dei momenti più divertenti del podcast. Poi, secondo annuncio velocissimo, donazioni sempre disponibili sul tasto in basso che appaiono a schermo come su Twitch. Poi, ulteriore informazione di servizio, la fase finale del podcast verrà registrata e salvata e caricata come video a parte sul canale, quindi la fase finale, che obiettivamente era molto bella, non verrà più persa. Poi, la news più importante, ne abbiamo parlato con Danda, con Morris, vogliamo farvi partecipare. Quindi, Danda, come li facciamo a partecipare? Adesso ti voglio vedere se hai seguito il discorso, vai. Ok. Allora, praticamente parteciperete inviandoci dei filmati girati da voi. Come ce li inviano? Che ne so, tramite messaggio. Tramite SMS, MMS. Esatto, mandateci tanti MMS. Tramite YouTube. Dovete mandarci un video che non mi importa sia pubblico o non elencato, caricato su YouTube. Ce lo potete mandare come messaggio su Facebook o meglio ancora su Discord, che è il canale più comodo per, insomma, comunicare. Ok. Video. Aspetta, di cosa però? Cosa importante, salutiamo prima. Arrivo, ciao a tutti ragazzi, grazie di essere qui anche ancora questa sera nella settima puntata del podcast Qualunque. Un grazie da Morris. Da Locke non vi ringrazio perché dovete essere qui. Va bene, vi ringrazio anch'io dato che mi hanno costretto. E quindi adesso facciamo continuare la spiegazione per l'appunto. Allora, praticamente è molto importante che questi video, oltre ad essere caricati su YouTube, ce li potete mandare su Discord. Però, quale sarà l'argomento del video? Lo decideremo insieme alla fine del podcast, nella fase finale dove interagiamo con voi, dove discuteremo un po' dell'episodio e se c'è qualcosa che volete approfondire, lo decideremo insieme e per voi sarà possibile appunto mandarci queste clip. Cosa faremo di queste clip? Non è che ci puliamo il culo, le prendiamo, le guardiamo tutti quanti insieme allegramente, ok? E dopo averle viste tutti quanti insieme allegramente le commenteremo e ci facciamo sopra un video ulteriore, quindi contenuti in più per voi, per noi, per tutti. E GG, qua finiscono gli annunci, cliccate il tasto donazioni e dateci dei cazzo di soldi. Esatto, i cazzo di soldi. E poi bisogna sempre cliccare la campanella. E la campanella. È l'unica cosa che ho imparato nel mondo dell'internet. Che è la novità. Cliccare la campanella. Si è aggiornata. Campanella. E mandare gli MMS. E mettere mi piace. E mettere mi piace. Chi non mette mi piace è un pezzo di merda. Siete già in 13. Oggettivamente. Arriveranno altre persone verso le 22:30 come al solito, ma voi 13 dovete mettere 13 cazzo di like su questo video. Perché sennò siete delle merde. Un po' come Giuseppe Simone, come delle donne per Giuseppe Simone, ok? E sì, mandateci anche i porno. Detto questo, possiamo iniziare con l'episodio, con l'episodio vero e proprio del podcast Qualunque. Quindi chiudiamo la chat per adesso, torneremo da voi più tardi come al solito e abbiamo una serie di video veramente buffi e stupidi. Squisiti. Il primo video che ho trovato, io l'ho visto in inglese, ok? E in inglese è tutta un'altra cosa. Perché c'è la musica, c'è persone che parlano. Qualcuno ha deciso di prendere un video degli anni 60, omofobo, che istruiva i ragazzi ad evitare gli omosessuali perché, boh, erano tutti pedofili, probabilmente, lo ha preso e lo ha tradotto con Google Translator. No! Ed è no, con Google Translate, l'ho tradotto no. Con Google Translate, no. È la parte migliore, non è nemmeno quella, che c'è la voce di Google a parlare. No, la e voce proprio, robotica. E c'è proprio il muto totale. Guardate, sentite, sentite qualcosa voi? No. E no, perché hanno tolto tutto. La musica anche, ha detto, boh, la eliminiamo. Aspetta, aspetta. Tu vedi questo video, ma non mi funzionano le casse. Sì, infatti. Cosa sta succedendo? E invece poi arriva, eccola qui, arriva, dov'è? Sono tenente US, un ufficiale di polizia allegato alla divisione minorile. Allegato alla divisione junior. Alta scuola parlare con un gruppo di giovani. È guardare innocenti. Ma aspetta un secondo, non è vero. Ma quello che ha caricato questo video l'ha riguardato prima no, di caricarlo? Stava malissimo. Il motivo o voleva semplicemente fare una cosa trash, non lo so. Ah, vabbè, magari sì. No, poi secondo me voleva farlo a titolo informativo. Deve far ridere, forse, dai. Lo sai, quanta è... speranza nell'umanità. Sai che, cioè, non è minimamente da prendere in considerazione. Ma il video era stato, l'originale ovviamente era serio come video. Sì, ovviamente, ma l'ultima cioè... volta che io ho letto qualcosa tradotta da Google Translate c'era scritto, e si stava parlando di un cazzo di gioco, c'era scritto gli animali sono fuori dal tavolo. Vabbè, gli animali sono fuori dal tavolo, cioè, voglio dire, non è attendibile, però vabbè, ci sta, cioè, almeno fa ridere. Comunque, io devo andare a parlare per... Bello. Un sacco di giovani autostop sembra un buon modo per andare da un luogo ad un altro. Ma no, ma c'è un luogo che è un modo pessimo, poi, l'autostop. Ma da quando l'autostop è vabbè, un modo... negli anni 60 vabbè, non tutti avevano sì, la macchina, l'autostop sì. Era un... Negli anni 60 l'autostop era meglio del pullman. Sì, era, quello c'era alla ma fine. Infatti, ma infatti è molto attuale comunque. È molto come meglio concetto. Per andare da un luogo ad un altro comunque. Sì, sì, è il modo più sicuro. A volte ci sono pericoli. Coinvolgere l'et mai soddisfare lo. Parliamo del caso di Jimmy Barnes. Jimmy giocare. Di chi? Che cazzo è? Ci hanno donato 5 euro. Ci è arrivata la prima donazione. No. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille per la donazione. Oddio. Okay, mi sto emozionata. Commuovendo. Sei commossa, Dada. Perché oggi sono nella fase che oh, mi commuovo. Che carina. Oh, ma grazie. Guardate, ottimo. Grazie per la donazione. Dopo faremo vedere altri porno ad Anda come premio. Grazie. Esatto. Altre cose che la renderanno faranno piangere tutto pomeriggio che non si sentiva come a casa a piedi, così ha deciso un giro un po', ha fatto un centinaio di volte prima e non pensava ma nulla cosa? Con il onu solito ma che no, sto afferrando il concetto. Allora, io a casa di Lia un po' ha fatto un centinaio di cosa ha fatto? Cos'era che voleva andare a casa 100 cosa? Allora, io l'ho visto in inglese, fondamentalmente è stato caricato da un omosessuale. No! Che non l'ha detto, ha detto ma si capisce più avanti poi. Si capisce più avanti. Credo, okay. Non lo so, io non l'ho vista tutta questa versione, l'ho visto solo in inglese. Quando il conducente colpito su una conversazione amichevole. L'ha colpito su una conversazione amichevole, tipo stavano conversando amichevolmente, bam! Mi ha dato un pugno. Ciao, io mi chiamo Marco. Boom! Sì, Marco. L'ha ucciso, vabbè. Comunque il bambino sembra contento, okay. È una conversazione amichevole. In realtà sembra un vero bravo ragazzo. A Jimmy essere giocato a baseball deve essere giocato a baseball. Anche mi sembra una cosa sessuale essere giocato a baseball. In questo caso cosa fa? La mazza, la base, cosa fa? La mazza. Qual è il suo ruolo? Lui lo prende e lo usa come mazza. Cospesso. Jimmy ha detto orlo praticano 3 volte a settimana. Ma che cosa? Essere giocati a baseball lo praticano 3 volte a settimana. Ah, ok. E ha svolto un gruppo rivale venerdì pomeriggio. Lo straniero è un buon ascoltatore e sembra solo minuti. Prima hanno tirato di fronte a casa sua quando Jimmy scese. Lo sconosciuto gli ha dato. Che faccia è? Oddio! Questo sembra proprio una brava sembra persona. Sembra il cugino brutto di Jack Nicholson. Effettivamente non è proprio affidabile. Sì, hanno preso praticamente la persona peggiore che potevano prendere. Perfetto. Questo è tipico omosessuale. Sì, è un incidente nucleare, non è una persona. Un pacca amichevole. E poi? L'assenza di musica mi turba tantissimo. Sì, sembra inquietante, vero? Sì, sembra che l'audio sia partito di botto. È tornato il giorno dopo, vero? Sta essendo giocato a baseball. Ah, perché gli ha dato informazioni sulla sua vita privata. Lui è ovviamente felice della visita. Quindi? Stanno parlando. E gli disse, se lo vede di nuovo, come sempre guidare dal parco in sua strada di casa. Abbastanza sicuro, il giorno seguente, quando Jimmy finito giocare a palla. Quando Jimmy finito giocare a palla, giorno sicuro, senti. Bene, l'uomo era lì in attesa, si fermarono a un drive-in sconosciuto creato in un cuoco. L'hanno creato in un cuoco! Un cuoco enorme! Pover'uomo! A sto pover'uomo gli hanno... Cosa c'è qui? Lo stomaco creato. Non serve, i polmoni non servono, gli hanno edificato un drive-in. E poi è cresciuto... Dio mio! Ma è stupendo! Ma io lo voglio, Google... Trovatevi la Divina Commedia in inglese, gliela facciamo tradurre. Sai cosa salta fuori? Ma sì, io ti ho detto famoso grazie a questo, cazzo. Ah, vero. Sì, infatti, tutti a vederlo per sentire le boiate. Del loro colloquiale lo disse molti off colore scherzo. Cosa? Off color scherzo? Ma dice anche delle parole tipo al contrario. In inglese, off color scherzo. È il tipico color scherzo, no? Qual è il colore dello E poi scherzo? Ci sono delle papere, vero? Ma Jimmy, hanno sentito altri prima di lui, bene fatto lui, sentire grande così facilmente. Mi sembra chiaro. Quando la fiducia di una persona anziana, il sabato successivo, sono andati pesca insieme. Ormai ma quando è che stavano scopano? Usando nome. Ralph ha detto che era più cordiale. Jimmy e Ralph, divertirsi. Finora è tutto bene comunque, vanno a pesca, sì, questo infatti. Stupratore, cioè nel senso, penso lo stupratore sta prendendo lo porta mica. Infatti ci danno un sacco di preliminari. Come l'ha trattato, cioè questo qui, ma qui i genitori. Sì, infatti i genitori, ho brutto stronzo, vai a giocare a baseball. Invece questo qua, stati, no, vai a farti giocare a baseball. Ma magari manda un po' avanti, quando è che arriva la parte violenta? Ma ogni potrebbe essere sempre una perla, non sai. Poi, durante il pranzo. Ralph mostrò alcune immagini pornografiche. Jimmy sa che non dovremmo. Ma dove le tiene essere... le immagini in tasca? Negli anni 60 le immaginette pornografiche. Interessati. Ma dove Ralph era curioso? Quello che sì non sapevo era che Ralph era malato. La malattia non era visibile, come piccoli bug, ma non meno pericolosa. E il contagioso non ha la malattia della mente. Si vede, Ralph era un uomo sessuale. Vabbè, io lo vedo che è malato di mente comunque. Forse il bambino non se ne accorge, ma io lo vedo. Allora, una persona che chiede a un'intima rapporto con i membri in loro sesso. Ma con i membri in loro sesso? Ma un fucile in mano! Sì, ma forse è il maniaco il bambino alla fine. È un pazzo assassino tipo che va a caccia di omosessuale. Sì, esatto, adesso lo uccide. Non uccidere Ralph. Andare posti insieme. Andare posti Ralph insieme. Col fucile al figata, ma vanno al minigolf col fucile. No, prima sei a caccia, prima al minigolf, cioè caccia, io cioè. Voglio dire, questo maniaco è un signore, nel senso, gli sta pagando il minigolf, è la pesca, è la caccia, è il farsi giocare a baseball. Cioè io non mi lamenterei per adesso, il culo glielo darei, cioè, a sto punto. Di parlare con Jimmy a molti luoghi interessanti. E ha fatto molte cose belle per lui, ha comprato regali, anche gli diede i soldi. Gli diede i soldi! Vabbè. Andiamo un po' avanti? Sì. Che giocare ma ancora gioca. Ma aspetta, il bambino ha cambiato colore. Sembrava fantastico. Sembrava fantastico. Ma non era biondo prima. Giocare più a lungo e ottenere un passaggio a casa. Anche troppo. Ma infatti quando hanno finito lo che giocare vago. Ah, questo qua. Genitore. Amenti sono stati attesi di ritorno. Vedi Jimmy non aveva riconosciuto. Approccio Ralph abbastanza presto, quando Ralph primo passo Jimmy per andare a pesca solo. Vabbè, qualcosa. Adesso ho dovuto discutere con il suo genitore o insegnante. Non l'ha arrestato, cazzo, che stronzo! Visto che era lui il maniaco. Prima si è fatto regalare tutte le cose, lo ha provocato. Ah, ma non stanno arrestando il bambino. No, e poi a denunciarlo, ha fatto licenziare. Ha fatto licenziare il pedofilo. Ha fatto licenziare il pedofilo dalla pedofilia. E ha fatto arrestare il tizio. Infatti non ha fatto niente, era gentile pure. Vabbè, bisogna vedere. Scusa, gli ha fatto regali, gli ha fatto tutto, e poi tu stronzo le luci senza che ti fa niente. No, è nella vabbè, parte ma gli avrà. Infatti, secondo me, quando salivano quelle scale avevano lo sguardo malizioso. Se l'è portato a casa da solo, quindi avrà provato a fargli un qualcosa, e però cioè, sessualità hanno qualunque straniero che prendono il giovane di soli, non importa quello che ti dicono. Bagni, gli stranieri pubblici prendono i giovani e di soli. Sì. C spesso può essere un luogo di ritrovo per l'omosessuale. Bobby è il suo amico. Per l'omosessuale Bobby è il suo amico. È tipo un cane. Questo video penso che sia qualcosa di ignorantissimo. Vabbè, sì, però è scusabile che è degli anni, è di 60, dai. Sì, sì, no, però è osceno, sì, no, cioè, ma più che altro, ma chi è venuto in mente di tradurlo così e di caricarlo? Cioè, se l'intenzione era seria e non quella di far ridere, penso che fosse, almeno a parer mio, io farei una cosa del genere per bisogna far ridere. Eh beh, certo, sì, sì, una persona normale, sei sì. Matto. Cioè, sei matto. Sei stato consigliato male dall'omosessuale Bobby. Esatto. No, la cosa divertente di questo video, da quello che si è capito, è che l'omosessuale Bobby è una Bobby è una razza così strana che sì, prima di abbindolarti amiconi ti comprano le cose, ti danno dei soldi, ti portano di qua di là e su e giù, e poi quando hanno appreso fiducia li arresti. In realtà penso che questo messaggio sia stato sbagliato, cioè non penso che l'origine dell'omosessuale no, la pedofilia. No, io l'ho visto in inglese, no. Perché una volta omosessuale veniva abbinato a pedofilia. Una volta era così. Sì, no, sì, perché questo qua è l'esempio. Ad oggi alcuni lo pensano ancora oggi. Sì, ancora oggi c'è la cosa, gli omosessuali sono pedofili, si fanno i bambini, non so bene perché. Boh. Vabbè, cambiamo argomento, voglio tornare, abbiamo parlato di Richard Benson l'altra volta. Vi ricordate quando Richard Benson si è un po' tradito sull'eredità? Sul fatto che aveva un sacco di soldi, sì, sì, sì, sì. Abbiamo riesumato di culo, di culo. 5 minuti fa l'abbiamo trovato, no, non 5 minuti fa. Comunque, vabbè, abbiamo trovato da poco. Questo video, tonto, mi sei tonto, dove Richard si tradisce un po' su, sul suo patrimonio. Sì, era di qualche anno. Grandissimo Richard, sono bambino. Gli chiedono di Pino Scotto, fondamentalmente. Lui dice: Pino Scotto mi sta simpatico, però, no, no. Assolutamente. Ma lui ti insulta, dice che sei un cazzone. Sì, se mi lasciate parlare vi spiego un antefatto. Spiega, spiega. Pino Scotto sa che io gestisco un patrimonio multimiliardario. No? Sì. Lui lo sa benissimo questo. Lo sappiamo e la moglie multimiliardario diceva una piccola eredità, sì, sì, no, e lui diceva no una grande eredità, e l'altra per cortesia Richard stai zitto. C'è anche un video di lei con le tette di fuori su YouTube, ma non possiamo farlo vedere. Peccato. No, ma no, non vogliamo farlo non vogliamo. Il che è diverso, qui non ha molti soldi, tira a campare dove gli porta invece il vento. Invece è lui che chiede l'elemosina. Se io lo insulto in televisione, lui mi denuncia e si inoltra un processo contro di me da parte sua per averlo diffamato in televisione. E non mi va che nessuno mi tocca i miei soldi. Tranne la droga. Quella può toccarli i soldi, o qualunque cosa ti sei fatto per venduti così. Poi vedi qua, ha affermato, quindi abbiamo due conferme da Benson, che questa eredità non era, insomma, una... Vabbè, non era uno spiccioli, non era uno spiccioli. Ma vedi, vedessi solo questo video, dico sta banfando. Mm. Ma nell'altro video, con la moglie sì, che si è subito corretta, in realtà inizia a pensare... che questo video sia vero, cioè nel senso che quello che stai dicendo sia vero, perché la moglie ha fatto proprio quella faccia come dire porca troia. Sì, sì, tipo sta zitto. Sta zitto, coglione. Capito? Capito? Lui aspetta solo quello. Ma che poi cioè, di lui quanti anni sta mandando è precedente al delle avvertenze continue, scusa, insulti continui nei miei confronti, aspettando che io mi incazzo a tal punto che praticamente lui mi può denunciare, perché io sto diffamando la sua persona via televisione. Non sono tanto stupido da mettermi in questo gioco. Bravo Richard. Bravo Richard. 2 anni dopo. Sono povero, ho bisogno dei vostri soldi. Ci appelliamo al signor Berlusconi. È vero. Ma ti devi spaventare. Povero. Ma solo 2 anni dopo? No, no, questo, so, è, no, questo è più vecchio. Quanto... Guarda com'è sta roba. Sarà, c'era già lo, sarà secondo, ma non credo, se io non direi, perché quegli occhiali sono quelli del video i nani, eh. Comunque i nani non dovrebbe essere vecchissima. Poi dipende da quanto tempo avrai, se me 6-7 anni tutti, dai. Boh. 6-7 anni. Anche guarda com'è, sì che era già ridotto maluccio, non era sanissimo. Sì, però è bello grasso, invece sì. Nell'ultimo video, nel video precedente che avevamo visto, era tipo... Era grasso, ma molto più deperito. Era sformato, aveva tutta la pelle in eccesso, poi invecchiato di brutto. Ma di colpo, abbiamo visto un video di un paio d'anni fa che era ancora relativamente sano, una malattia l'ha preso di sicuro, cioè... Sì. No, su quello non c'è dubbio, nel senso, per carità. Si vede che ha avuto un declino proprio repentino. Gli avranno tirato del pollo marcio. Però Benson, ecco, dovresti gestire meglio il tuo patrimonio la prossima volta. Nella prossima vita. Nella prossima vita, che ormai... Comunque, torniamo al nostro amico, dal nostro amico. Ah, la bellissima terra piatta. Sì, del nostro... Non mi ricordo mai il nome, ma tanto lo scrive. Credete che si trova lontano... Il video è sono pazzo a credere che la terra è piatta. Ma è un punto, c'è un punto esclamativo? No, è ironico. Ah, beh, certo. Ma lui ha delle argomentazioni estremamente scientifiche. Ovvio. 93 milioni di miglia e che è 400 volte più grande dell'altro. Di che mentre cosa? L'altro grande, si trova a sole 240.000 miglia. È un comparison per far vedere che credo questa musica poi. Ma il fatto che il sole e la luna si riflettono sempre sull'acqua in linea diritta dall'orizzonte all'osservatore conferma che la Terra non è tonda. Perché? Questo è veramente allucinante. Ma sentiamo l'argomentazione. Tu sei la solita scettica testa di cazzo. La Terra è tonda. È piatta. Pentiti. Miscredente. Pentiti. Adesso ti spiega perché. Adesso la spiegazione arriva. Se mi convince. La superficie della Terra fosse curva, sarebbe impossibile per la luce che si riflette curvarsi sopra la palla dall'orizzonte all'osservatore. Ovvio, questa è la spiegazione. Ma io non l'ho capita. Perché è impossibile. Punto. Ti servono anche spiegazioni. Guarda, ti bastano gli occhi per vedere. Non vedi che dritta la riga è dritta? Quindi la Terra è dritta. Piatta. Esatto. Perché se noi prendiamo, per dire, questo bicchiere, no? Scusate, no, prendo un bicchiere vuoto. È mio. Sì, è qua. Non è sperma. Ok. Allora, datemi la webcam, no? Se noi prendiamo questo bicchiere, no? E io sono l'osservatore, ok? Se io proietto la luce qua, e il mio dito è la luce, vedi? Dal mio punto di vista, in effetti, vedi? Dovresti vedere la curva. Dovrei vedere la curva come il mio dito, ma non c'entra nulla il fatto che il bicchiere è estremamente piccolo e quindi ovviamente vedo subito la curvatura, invece la Terra essendo gigante e non essendo effettivamente una sfera, essendo un geoide, ma comunque la luce viene riflettuta dall'atmosfera che è comunque circolare. Boh! Non c'entra nulla la dimensione gigante della Terra col fatto che io la vedo una riga dritta, perché se sul bicchiere che è minuscolo il mio dito lo vedo curvare... Ovviamente dovrebbe curvare anche la luce. Ma la domanda, che a me viene da porgere è: ma visto che parliamo proprio che la Terra è piatta, allora perché arrivati a un certo punto, soprattutto quando si guarda il mare, io non vedo più, eppure il mio occhio ha ancora facoltà di vedere oltre, forse perché non è che la Terra che si sta iniziando a curvare. Ma guarda quelle cazzate che dice Morris, è ovvio che c'è il limite occhio umano, no? Il mio occhio umano ha un limite superiore, ma è la menzogna della NASA, ti fanno sentire un super uomo, ma che cazzo sei, un X-Men che vedi fino in America, porca troia. Secondo me c'entrano le scie chimiche e l'omosessuale Bobby, ma probabilmente loro rilasciano delle scie chimiche per creare l'orizzonte e farti credere che la Terra sia piatta. Ah, ok. Probabilmente. Che sia tonda. Fatti credere che sia tonda. Sì, scusate, mi confondo sempre. Vieni, ignorante. Fa sentire ancora. Perché vorrei... Ci sono altre motivazioni, comunque. Vorrei sentire. Bella sta musica. Sì, credete di vedere questo perché la Terra ruota. Ma perché usa sto tono di voce? È davvero fantasioso. Fastidioso. Sta provando a emulare quello che... No, sta provando a imitare coso? Sì. Piero Angela. Ma dai, no, Piero Angela non ha mai parlato così. Sta provando a imitare quello che sta traducendo, con lo stesso tono di quello che traduce. Anche quando fa blu blu. Anche quando fa blu blu. Mentre credete che solo questa orbiti la Terra? E non dice niente, dice solo queste informazioni. Mentre credete che solo questa orbiti la Terra. Che è la Luna. Si vedono due cerchi equidistanti della stessa grandezza tracciare lo stesso percorso ad una velocità simile, che si riflettono sull'acqua nello stesso modo, ed ancora credete che uno è centinaia di volte più grande e molto più lontano dell'altro? Sì, perché essendo più lontano e molto più grande, lo vediamo più o meno delle stesse dimensioni. Boh! Perché i geocentristi, no, questa è un'altra cosa. Chi crede alla Terra piatta crede che il Sole e la Luna siano a pochi chilometri di distanza. Non so bene poi tutta la logica che hanno loro, no? E loro dicono, com'è possibile che più o meno girano alle stesse velocità? A parte il fatto che in realtà la Luna orbita attorno alla Terra, il ciclo completo della Luna, non mi ricordo più quanti giorni è, quasi un mese se non sbaglio. 28 giorni. 28 giorni il ciclo completo della Luna. Quindi ovviamente noi in realtà la vediamo che gira intorno a noi di continuo, perché anche la Terra gira sul suo asse. Però l'orbita completa della Luna con tutte le sue fasi dura poi in realtà 28 giorni. Quindi non hanno la stessa velocità, è solo un'illusione data dal movimento anche della Terra. Vabbè. Li vedete entrambi sorgere ad est e tramontare ad ovest tutti i giorni. Ma credete che uno di essi sorge ad ovest e tramonta ad est e che orbita la Terra solo una volta ogni 28 giorni, anche se lo vedete sorgere e tramontare ogni giorno? Ma io sono l'unica che non sta capendo cosa dice. Perché dice cazzate, perché dice cose talmente sconnesse, talmente distaccate da quello che sono i fatti, che non hanno nessun senso. Perché siamo noi che giriamo su noi stessi, per questo vediamo girare il Sole, allora noi che abitiamo intorno al Sole ci mettiamo un cazzo di anno. Ma non per questo vuol dire che, vabbè, è il stesso discorso della Luna. Noi giriamo intorno su noi stessi e quindi anche la luce del Sole si sposta, ok? E invece noi ruotiamo intorno al Sole in un cazzo di anno. Invece lui dice che è inutile, perché è inutile argomentarmi. Non riesco a argomentarmi con lui neanche se sta zitto. Lui sta dicendo che noi giriamo intorno al Sole in 28 giorni. Cioè sta sfasando i tempi, da quel che ho capito almeno. Quello che mi è parso di capire. Poi si può sbagliare, cioè. Bah. I vostri credo non rivelano la vostra ignoranza, ma la vostra stupidità. Siete tutti stupidi, voi che ci seguite da casa. Sono tutti stupidi tranne stupidi lui. Stupidi coglioni. E anche un po' teste di cazzo, eh? Allora, io c'ho sto video di Danda, che me lo sto portando dietro da 4 puntate. E non ho idea di cosa sia, ma il titolo non mi piace, quindi non lo faccio mai partire nella playlist. Me l'ha suggerito la cara Michela. Ah, te l'ha suggerito Michela, ma non su Discord, non tramite i canali ufficiali. No, non c'era ancora Discord. Però la perdono perché l'ha fatto la donazione. Mamma mia, veramente, lei è proprio una brava persona, ma a parte la donazione è una persona che merita. Però la donazione aumenta ulteriormente il valore della persona, diciamolo. Che chi dona è su un gradino leggermente più alto. Avrà delle cose in privato. Di chi non dona, cioè, diciamo, chiaramente. Nel senso, avrà delle cose in privato. Esatto. Detto questo, il risveglio dell'umano divino, la nuova specie da Ashana, che vediamo cos'è. Io onestamente non l'ho ancora vista. Animati TV da sempre delle grandi sinonimo soddisfazioni. Sinonimo di qualità. Insegnamenti dalla quinta dimensione. Cazzo, io non ho ancora ricevuto nulla dalla seconda, dalla terza, dalla quarta. No. E tu già mi mandi insegnamenti dalla quinta? Ho saltato gli anni. Perché sono avanti. Sono troppo avanti questi qua di Anima TV. Dici, dici. Darshana, ma lei si chiama davvero Darshana? Non credo però. Cioè, che nome è? Darshana, dai. Sì, lo stai dicendo a Morris, eh? Cosa? Che nome è Darshana? Stiamo vivendo un'epoca straordinaria. Eh sì, proprio una grande. Un tempo unico nella storia di tutta l'umanità. Un po' come tutti i tempi. Dal tempo dei tempi fino ad oggi, un tempo speciale come questo non si era mai vissuto. È il congiuntivo? Che tempo è? È un tempo particolare perché ci stiamo evolvendo. La specie umana si sta evolvendo verso una specie superiore. Ah sì? Oh, speriamo. I temi che vado portando... Io vorrei essere un umano più magro e più alto. Beh, sei già magra, Danda, e poi basta, stai bene. Non cagare la minchia, sai? Qua abbiamo, ci sono io e Morris che dovremmo tipo... Spero che ci schiudiamo in qualcos'altro da un momento all'altro. Poi arriva lei, tutta figa e perfettina. Io vorrei essere un po' più magra e un po' più alta. Ma vaffanculo, vaffanculo, Danda, vaffanculo. Voglio essere un umano nuovo anch'io. No, non te lo meriti. Noi sì, ma no, più alta e più magra. Perché no? Perché fisicamente stai già bene, alta, esistono i tacchi. Cazzo, ci siamo io e lui i che tacchi fanno male ai piedi. Da zero, cazzo. Ah, vabbè, io sono 1,90 con l'altezza, sì, non mi lui è a posto con l'altezza. Io sono basso e tozzo, che basta che mangio pasta per due giorni e di colpo mi torna di nuovo la pancia, porca troia. Io sono alto e Morris è alto massiccio. È cattivo e mangia i bambini, quindi lui deve diventare una persona migliore, anche perché deve smettere di mangiare i bambini, che poi lo arrestano e perdiamo uno slot sul podcast. Danda, non ti lamentare. Ok. Oh, esatto. Che fatto... Rimarrò un umano della vecchia specie solo per voi. Ma... Oh. Puoi evolverti, ma smettila di dire più alta e più magra. Fisicamente va bene, alta i tacchi. Non ti lamentare. Conferenze vertono proprio su questo argomento. Ci stiamo preparando ad essere una nuova specie. Una specie che si evolverà non tanto fisicamente, perché abbiamo già tutto quello che ci serve. No. Ma che cazzo di... Abbiamo il naso e la bocca che sono glitchatissimi, secondo me. Allora, perché cazzo mangiamo dallo stesso buco da cui possiamo respirare? Io spesso mi affogo con l'acqua che bevo o con la mia stessa saliva. Ma che senso ha? Perché cazzo il corpo non ha separato sti cazzo di buchi? Cazzo, butto il cibo in un buco che potrebbe uccidermi, faccio un gesto che è indispensabile per la mia vita 2 o 3 volte al giorno e ogni volta che lo faccio potrei morire. E non dico cazzate, perché ci sono persone che effettivamente muoiono ogni giorno per soffocamento banalissimo da cibo. Sì, è vero. La nostra razza umana è così, è il corpo perfetto di cosa? È vero. Stupidi umani. Poi pensa al vantaggio che uno avrebbe da evolversi e avere anche le branchie, non affogherebbe più nessuno. Sì, di brutto. Minchia, allora, le branchie sarebbero gravissime. Respirare da un altro buco che non sia la bocca, ragazzi, che cazzo ci vuole? Oh, Dio, Madonna. Respira dal naso. E no, però quando mangi rischi di soffocare, è vero, comunque. Sì. Sai cosa ti va di traverso la roba? Di traverso! È un glitch! Sei di merda, sì. È un glitch, cazzo, stupido qualcuno. Quanto nella sua struttura neurobiologica. Ah, beh, allora sì. Quindi a livello cerebrale. Soprattutto tu. Si potenzieranno specializzazioni della nostra mente che sono contenute nelle 10 eliche del DNA non evoluto. Quello che gli scienziati chiamano DNA spazzatura. Sicuramente gli scienziati lo chiamano così, ma per questa sembra sapere di cosa parla, ma è una cosa, adesso vediamo. Cioè, nel senso, sta dicendo delle cose quasi giuste a livello teorico sul DNA, poi adesso voglio vedere come... Queste 10 eliche contengono informazioni di quando eravamo semidei. Proprio, cioè, subito, così, pam. Questa doveva essere figa qualche anno fa, scrivono. In effetti è vero. Questa qua secondo me era spiselabilissima qualche anno fa. Tu, Danda, cosa ne pensi? Oh, sì, dalle 10 anni di meno? Ma sì. Diciamo che 20. Insomma, che 20 anni di me. Guarda che certe fino a 40-50 anni si tengono bene. Guarda Cristina D'Avena. Lei sì, lei è da buttarglielo. Qualche... Andiamo dietro nel tempo e glielo buttiamo quando è una semidea. Sì. Ok, vediamo. Siamo creatori su questo pianeta. Ah. E lo dice con dunque la nuova specie nell'arco di 70-100 anni vivrà su questo pianeta con delle qualità straordinarie che abbiamo avuto nel tempo dei tempi, nell'antichità, nell'archetipo dell'umanità, ma che abbiamo perso per varie ragioni e che oggi andremo a ritrovare. Vai, ritroviamo. Per vivere questa possibilità dobbiamo però raggiungere uno stadio particolare delle nostre... Il San Siro? Non era bella la battuta, vero? No, no, era calcistica. Pessima, era qualcosa pessima. Di orrendo. Nostre qualità cerebrali, che è lo stato di non mente. I grandi maestri di tutti i tempi, dal Buddha al Cristo a Babaji l'immortale, a sono chi, venuti. Scusa? Che cazzo è? Adesso voglio vedere chi è Babaji l'immortale. Scusate, faccio una mini pausa di un secondo. Babaji l'immortale. Sarà tipo Majin Buu. Ci sono dei video che. Ah, è un uomo scimmio. Tutto qua? È un uomo. Questo è un uomo arrabbiato, preso male. Niente di che. Questo è Babaji l'immortale. C'è uno pelato stranissimo. Dov'è uno pelato? Quello lì con la maglietta. Ah, questo ha fatto un video su Babaji l'immortale. Ah, okay. Molto interessante. Questo è Babaji l'immortale. Continuiamo. Ma noi dobbiamo assomigliare a lui? Sì. Tra pochissimo, quando ci evolveremo. Che su questo pianeta, in funzione di Avatar, per l'umanità risvegliata, per l'umanità illuminata, proprio per portarci verso questo stato di non mente. Il Buddha parlava di vacuità, che non è un vuoto, quanto uno spazio pieno di silenzio, di quiete. Che palle, il grande oceano della compassione. Andiamo è uno avanti. Spazio di quiete, realizzazione. Il risveglio è anche il tempo della manifestazione. Di chi? Da molti anni conosciamo alcune leggi, quelle dell'attrazione, ad esempio, o il ritmo, pensiero positivo, puttana! Realizzare qualcosa nella propria vita, essere co-creatori, si dice, no? Della propria vita. Ma in realtà noi... Dai dei consigli quasi utili così a muzzo in mezzo, dai. Sì. Non possiamo manifestare se non quello che già alberga in noi. Non possiamo manifestare quello che non è in noi. Dunque, l'abbondanza o la realizzazione di ciò che noi vogliamo essere o vorremmo essere può divenire solo nel momento in cui avviene in noi un cambiamento, un'accettazione, una responsabilità. Basta! Dai, che fai eco, non ce la faccio più. Ma vai sul finale, vediamo se è ancora su, diamo l'ultima possibilità. Dai. A terra ci sono stati una serie di sconvolgimenti, terremoti, tsunami, uragani, la stessa temperatura ambientale, no? I fenomeni atmosferici stanno cambiando notevolmente. Non esistono più le stagioni. Non ci sono più le mezze stagioni. Signora mia! Quando ero giovane io. C'erano stagioni da vendere. Questo è paritario ad una sorta di gap interiore che sta avvenendo nell'essere umano, una sorta di spaccatura molto forte tra l'essenza dell'uomo, la sua vera natura. Bocciatissima. Ma che bello sto fermo immagine. Te la vuoi ancora pisellare? Di brutto. Figuriamo. Cazzo, stringe il labbro per far assomigliare tutto a una vagina. Non ci fossero i denti, ci avrei già messo il cazzo nel monitor. Che porca puttana. Tu cosa ne pensi, Maurice? Te la vuoi pisellare? Diciamo che vorrei tralasciare questi particolari. No, però, diciamo che l'argomento che tratta non è che non è interessante. Forse è spiegato in un modo... Ma forse lo tratta male anche. Cioè... No, forse è spiegato in un modo... Noioso. Quale, sì, è un modo che probabilmente può non essere o compreso bene o non può piacere bene. Diciamo che il fattore dello stadio, mente, non mente, esiste. Nel senso che noi ci evolviamo più sulla mente che rispetto al corpo, è vero? No, diverso quello. Il fattore stadio, mente, non mente, è una sorta di gioco di parole. Tendenzialmente la nostra mente, siccome è abituata a determinati tipi di fattori, stimoli, sensazioni, è tra virgolette bloccata in quello stadio e non ci fa sentire altre sensazioni che ci circondano, tra virgolette. Quelle sono quelle, praticamente quel legame che ci lega un pochettino di più a tutto quello che ci circonda, cioè alla natura stessa, ad un legame stesso col pianeta e ad altre forme di vita. Sei proprio un cazzo di hippie di merda. No, non è un fattore di hippie, è proprio un fattore di... Io avevo già detto che comunque mi piacevano queste cose di spiritualismo e quant'altro, però quello che dice lei delle richieste, di queste non richieste, è un po' come si tornava: quando tu sei convinto di una cosa e credi fortemente in una cosa, hai molte più probabilità di chi non ci crede. Ma questo perché è la tua mente che crea dei legami con quello che lo circonda. Cioè, e sembra strano un pochettino, però diciamo che abbiamo dei limiti, sì, ma sono molto più alti di quelli che conosciamo. Cioè, è diverso. Il nostro limite mentale è molto più alto di quello che noi conosciamo. Cioè, non è che possiamo sbloccare il, come ti dicono alcuni, tra 100 anni voli, cammini sull'acqua, tocchi uno, questo no. Il fattore di camminare sull'acqua, volare, queste cose, no. Però proprio il poter creare un collegamento differente, più forte con quello che ci circonda, sì. Ma in realtà, allora, il cervello è ovviamente uno strumento che noi stiamo ancora studiando. Esiste addirittura uno strumento in fase di test, tra virgolette, di uno scienziato che è riuscito a comunicare le sensazioni attraverso internet. Ancora stiamo imparando a leggerlo il cervello. Ti dirò, allora, adesso... Sicuramente ci evolveremo e faremo qualcosa in più grazie al cervello, ma io non lo metto in dubbio, e perderemo delle capacità fisiche. Allora, io ti dirò anche che devo poi recuperarli questi nomi. Dammi qualche giorno, poi li recupero. Ci sono degli studi che sono stati portati in America e anche in concomitanza con America e Russia, di per l'appunto delle onde che sprigiona il nostro corpo in base ai sentimenti che proviamo. Ma tipo l'anello, quello che cambia colore? No. Ah. Quello lì no. Però, tra virgolette, una persona che ha una fortissima tendenza negativa, e quindi una persona che è molto negativa, può influenzare senza neanche parlare le altre persone. Io lo faccio sempre, cioè, perché io sono negativa e influenzo gli altri. Una persona negativa, una persona negativa può far diventare, può far sentirsi un po' più può far sentire un po' più cupo, un po' più giù altre persone senza neanche parlare, semplicemente perché lui sta continuando a bombardare. Secondo me è il linguaggio del corpo, nel senso che noi come tutti gli animali, sono onde, tra virgolette, questi studi sono delle onde che sono state date fuori, che il nostro corpo, collegamento mentale, questa mi sa di cazzata, no, così, vabbè, onde tra virgolette, tutto è onde, esatto. No, non è esattamente quello, sono comunque, tra virgolette, comunicazioni, sì, energetiche, noi le mandiamo continuamente. Come fai a far capire ad una persona, cioè, tra virgolette, sembra una stronzata, ma quando tu vuoi realmente bene ad una persona, non basta soltanto abbracciarla. Se l'abbracci realmente con sentimento, l'altra persona la percepisce molto di più. Ma a dire il vero è facilissimo mentire sui propri sentimenti e far credere a una persona che le vuoi bene quando in realtà non sì, lo vuoi. Perché quando l'altra persona è già ormai presa, che è ormai soggiogata da dalle tue parole. Ma no, secondo me condizionare tutto... le persone è facile, sì. Te lo dice un esperto. Per carità. Condizionare le persone è facile, convincerle di essere qualcosa che non sei è facile. Far credere a qualcuno che provi qualcosa di forte quando in realtà non lo provi è facile, specialmente se l'altra persona lo vuole. Cioè, se c'è un uomo o una donna tanto presi da qualcun altro, ora mi viene di nuovo a piangere. Non ci vuole niente a ingannare i suoi sentimenti. No. Ti basta la parola giusta, la carezza giusta, basta che sia abbastanza freddo con te stesso. Il discorso di cui parlavo io era differente. Cioè, tu puoi trasmettere ad un'altra persona più sentimenti positivi o negativi, ma anche forse, tra virgolette, chiamiamole energie positive o negative, perché comunque tutto quello che ci circonda ha comunque un flusso di energia. Lo diceva il vero. La vita. Per quanto... No, non prendere in giro quell'anziano, ti prego! Per quanto uno possa anche non crederci, che comunque, come io posso credere in alcune cose, tu sei libero di... molti altri sono liberi di non credere in alcune cose, ogni cosa comunque è legata... a tutto tramite, per l'appunto, delle energie che noi magari non riusciamo né a vedere né, ne percepire. Sì, tutto è energia, tutto, in un certo senso. Questo sì, tutto è movimento, tutto è energia. È in automatica. Ogni, se... Il tuo pensiero vive, consuma energia che si sprigiona nell'aria. Io un giorno respirerò i tuoi pensieri. Lo diceva anche Vissossi in un video. È vero. Però... Da qui a influenzare, non lo so, sono molto, diciamo, scettica. No, è uno stato, è uno status, allora, mi sono alterato. Spiegato in maniera veloce. Non è che io entro in camera tua, se, cioè io entro qua, siete tu e Danda, voi siete tranquilli, non avete pensieri, state pensando a un cazzo. Io entro, ho i miei cazzi, non vi dico nulla, ma il mio stato sembra mentale sembra il set di un film porno, è negativo. No, no, il mio stato mentale è negativo, bam, voi andate giù. Ma questo secondo me però una influenza continua, se tu entri e hai un linguaggio del corpo palese, si vedono le persone scazzate, si vedono senza bisogno che parlano, si vede quando uno è scazzato, perché chiamala anche linguaggio del corpo, magari incondizionato, perché sì, magari tu sì, non vuoi farti ovvio vedere dagli altri, è sempre incondizionato il linguaggio però, no, del alcuni corpo lo, alcuni lo no alcuni lo proprio lo esprimono, lo esasperano perché gli piace, magari sì, è vero, io lo faccio, io lo faccio, è successo, però anche tu quando vuoi fare il matto, lo scemo così, però se una persona, cioè, riesci un minimo ad andare oltre la tua, diciamo, la tua esuberanza, vede che comunque tu hai sempre gli occhi magari un po' tristi, spenti, oppure allora gli occhi, e quelli sono non sono, se tu consideri questo, consideri che io incondizionatamente non lo faccio apposta, ho i miei pensieri. Certo. Anche un mio linguaggio del corpo è comunque un mio trasmettervi qualcosa, e quindi questo è condizionarvi. Cioè, ripeto, ci sono sì, più. Sì, ma sì. È importante usare il linguaggio del corpo per condizionare le persone. Regola numero uno. Ma capisci che ci sono più aspetti e più fattori. Io non dico che molte volte le cose che dicono a livello spirituale, non spirituale, queste cose sono: ah no, è così, tu passi, uno sta male, lo sfiori, sta bene. No. Però ci sono delle cose, delle cose che inconsapevolmente possono permetterti di far cambiare l'atteggiamento o l'umore di una persona. Io comunque ho una proposta per il podcast. Dica, facciamo signorina. Il porno. La prossima volta dietro a Morris mettiamo un bello sfondo di nuvole e la dissolvenza. No, mettiamo un green screen e gli mettiamo quell'effetto lì. Secondo me ci sarebbe bene. E poi lo vestiamo di bianco. Morris, va benissimo. Non è un problema. Mi diverto lo stesso. Com'è che si chiama Baba Jim? Adesso lo chiamiamo Baba Jim, Morris. Allora, detto questo, dato che tanto Danda ha già deciso che non si tromba più. Mai più. Mi avete fatto vedere quelle robe. Vediamo cosa ne pensa il nostro amatissimo Papa. Questo qual è già? Papa Francesco. Papa Francesco, vuol dire. Ma che numero è però? Primo. Ah, il primo Francesco? Sì. L'amore... Ma sta sul cazzo. Un anziano. Tu vuol dire un anziano? Ah sì, dai. Cazzo, hai un potere allucinante. Sì. E lo usa per il male. Il male, vabbè. Sì, guarda cosa dice. Dice che non devi scopare. Tanto. E nelle opere, e nel comunicarsi. Nel comunicazzo, capito? Ha detto perché? Comunicazzo. Il Papa ha detto cazzo. Il Papa ha detto cazzo. Dovevamo fare il Papa Boy. È molto rispettoso. Non si sente niente. Non si sente un cazzo di niente. Massimo. Non usa le persone. Chi è che non usa? Cioè, l'amore. Forse dobbiamo solo stare zitti. L'amore non usa le persone. Questo ve l'ho tradotto io. L'amore è casto. E a voi, giovani, l'amore è casto. In questo mondo. Vedi, questa è la faccia di Danda. Prima parlavamo io e Danda e Morris, parlavamo di cosa succede a un uomo quando non si masturba per troppo tempo. Ecco cosa succede, gli viene questa faccia qua, vedi? Vedi com'è tutto tirato, teso, sta sudando, non ce la fa più. È pieno di sperma. È pieno di liquido seminale. E fa un po' si gira e butta, quello è lucido. Butta la lingua in bocca a sta vecchia. Dai. Ma quella dietro, quello che è passato. In questo mondo edonista, in questo mondo dove soltanto ha pubblicità il piacere. Ma che schifo il piacere, vivete come me, triste fino alla fine e da solo, senza una compagna, senza un compagno, senza un cazzo di nessuno. E mi scoprirò le suore, io mi chiedo di scoprirmi le suore. Dai, non ma, sono tanto attraenti. No, le, ma il costume della sua alcune, mi attizza. Quelle io non nuove. Ho mai visto una sua. No, io sì, io l'ho vista. Ah! E stavo, ero con lo zainetto, Young Lock, immagino così. Che carino, dolcissimo. Sì, che camminavo, ok? E mi si ferma questo pandino pieno di suore davanti, un pandino pieno di suore, che mi chiedono informazioni per un posto. E quella che guidava era figa. E io da quel giorno, suore. Perché proprio il vestito così... Suore, se, se ci state ascoltando, fatevi mandatemi un messaggio privato su Facebook. Sicuramente poi ci seguiranno, tante suore. Tantissime suore. e niente, ho proprio preso... Ho detto, ma non è possibile, la figa, perché si è fatta suora? E niente, proprio, quindi vabbè. Mi masturbo pensando... Ah, non mi masturbo io. Ma passarla bene, fare bene la vita, io vi dico, siate casti. Oh, anziché fare la bella vita, divertirvi, vi dico, siate casti, cazzo. Quell'uccello ve lo tenete nel culo, no? Tenetelo, no. Tenetelo. Mani Maurice, in tasca. Maurice, hai capito come, dove, come devi essere tu? Come devi, dillo. Casto. Oh, tu da, essere casto. Tu Danda. Casto. Casta. Casto anche Danda. Deve farsi crescere il cazzo, io, diventare casto anche io lei. Qua lo dico e qua lo prometto, io non mi masturberò mai più in tutta la mia vita, basta. Sì, in certo. Tutta la mia vita per almeno passerò almeno 2 o 3 al giorno senza masturbarmi, lo giuro. Perché sappiamo tutti che non è così, che nemmeno 2 o 3 al giorno senza masturbarmi, madonna Mori, sei proprio poca fiducia, metto a dormire. Ma che carina la signora. Con capello cowboy. Tutti noi abbiamo passato nella vita, siamo passati per momenti nel quale questa virtù è molto difficile. Cosa è sto suono? Ah, in casa? È la mia femmina. Ah, ok, è tornata. Sì, okay. Sì, sì. E sta cantando? Sta guardando qualcosa in TV. Ah, ok. Ma è proprio la prova di un amore genuino, di un amore che sa dar la vita, che non cerca usare l'altro per il proprio piacere. Bussare. No, usare l'altro. Ah. Io volevo, non volevo dirle signor Papa, però il piacere è reciproco, ok? Io non sto, io sì, sto usando la femmina per provare piacere, ma anche lei. Ma nel farlo, lei sta usando il mio pene. In tutta la sua possenza e magnificenza. Almeno che non sei un cazzo di egoista. No, non sono egoista. Ma non sto dicendo a te, io a te non ti ho mica mai provato. Non mi hai mai provato, Danda. No. Tu, Maurice, cosa ne pensi invece? Mi hai provato? Sono egoista. No, non ti ho mai provato neanche io. Mica mi sono dedicato a Maurice. Non ti ho mai provato neanche io. Perché era la sua prima volta con un uomo. E quindi era molto, molto. Non molto è vero! Più. Non era la tua prima volta con un uomo? No. Tu mi hai detto di sì. No, vabbè, ho dovuto farti contento. E mica per e farlo andare su e scioglierlo un attimo, 2 o 3 ore di lavoro, ma lavoro fatto mi bene. Mi agito in l'hai modo l'hai portato abbastanza. Al minigolf. L'ho portato all'orgasmo. Mi ha portato al minigolf e poi siamo andati a diventare tutti e due delle mazze da baseball, poi da golf. Sì, poi l'ho portato a pescare, l'ho portato a caccia. Abbiamo fatto delle e cose. Poi mi ha fatto arrestare sto stronzo. Esatto, l'ho fatto arrestare. Mia prima volta finita con un arresto. Un amore che fa la vita dell'altra persona sacra. Anche lui è tradotto con Google Translate. Usiamo Google Translate, non si capiva di più, porca troia. Comunque no, a me lui non piace perché mi sa proprio di mossa commerciale. Beh, è una mossa commerciale, sì. E allo stesso tempo però dice se senti che cazzate degli altri. Perché poi è uguale, cioè non cambiano mai. Qualche aperturina sembra che l'abbia avuta, però... Sì, ma poi ha fatto subito passo indietro, subito... Sì. L'amplesso fisico, no, l'amplesso fisico con i rapporti prematrimoniali non ci riescono ad amare l'altro per ciò che è, ma per quello che ci dà. E invece quelli post matrimoniali, scusa, infatti, perché dovrebbero essere poi, più puri? Che cosa c'è di sbagliato nell'amare qualcuno per quello che ci dà e non per quello che è? Alla fine la relazione è una cosa che va in entrambe le direzioni, non è che io sposo un manichino che sta fermo, deve darmi qualcosa sto manichino. Basta. sai, capisco che non bisogna andare a letto con persone di cui non ti importa. Ah, chi se ne frega. Ma quello, ma cosa stai facendo? Si sta grattando. Io penso che va bene. Perché, allora... Ma si sta masturbando con la mano. And hold a gun to her head and threaten to shoot her. He said I would jump in her place and I would say shoot me instead. E quindi? I said, really? And he said, yeah, ma sta cosa io l'ho già vista. Ma hai fatto vedere tu. Do it. Die for her. And he looked a bit puzzled at what I had to say. And I said, listen, you know, realistically, I said that desire that God has placed upon your heart to give your life as a sacrifice for this girl you care about, that's a good desire. It's noble. It's something good. But realistically, your girlfriend, unless she's involved with organized crime, probably isn't going to be held at gunpoint anytime soon. E quindi non devi scopartela. Io sapevo come fa ad arrivare al punto. She doesn't need you to protect her from the mafia. Devi sapere dal tuo cazzo. She needs you to protect esatto! her from yourself. The desires you have, the lust, not to protect simply her body, but ma scopate cazzo. Ma che poi riescono a essere maschilisti anche nel momento in cui cercano di dire che la donna va rispettata, riescono a essere maschilisti lo stesso, perché cioè magari cioè la donna non è un oggetto privo di ogni sentimento, di ogni intenzione. Se vuoi scopare la prendi, la usi, punta, sì, quella esatto. La cestini. Ma non succede così nella vita reale, porca miseria. Esatto. Ma parte tutto, ma qualcosa di divertente non ce l'abbiamo. Ma a me sembra divertentissimo. Ma no, è bello questo. Abbiamo visto i ragazzi comportamenti, abbiamo visto Richard Benson, non possiamo solo ridere. Il Papa ha detto cazzo. Il Papa non ha detto cazzo. Il Papa ha detto cazzo. E ha detto che non bisogna bussare gli altri. E non andare a bussare gli altri. Possiamo, non bussiamo gli altri. Possiamo vedere. Possiamo vedere questo. Effetti devastanti della marijuana. Oh no! Oh no, la marijuana! Mio Dio! Siamo that of your daughter. Ma cosa decide con delle tue figlie? O a tuo figlio? O al tuo? O al tuo? Ma con chi parla? Do not smoke marijuana, bitches. Che sono legali in America, per fortuna. Vabbè, all'epoca si può agli anni. Questa che bello, questo era rapido. Questa era qualcosa di. Questo è proprio un video rapido e indolore per una Morris. Chicca. Ma allora, non abbiamo mai parlato della legalizzazione delle droghe leggere. Io sono per legalizzare tutto, il corpo è mio. Se tu mi vendi un prodotto e me lo descrivi bene, me lo pubblicizzi bene e mi dici tutto, io ho il diritto di ficcarmelo dentro. Punto. Questo è quello che penso io. Sì, credo di essere d'accordo. Tu vuoi ficcartelo dentro, Morris? So che lo vuoi. Guarda che ho la tuta, poi un casino. Stai la tuta è comoda, te la togli, te lo sì, butto. Sì, sarà comoda quanto vuoi, ma però non va bene, comunque. No, vabbè, io per la legalizzazione di tutto, no. Però onestamente delle droghe leggere non ci trovo nulla di male, voglio dire, anche se viene categorizzata droga leggera. Cioè, se facciamo un attimo due conti, anche la cocaina, è vero, è una pianta. Però comunque la pianta viene sempre presa, comunque trattata, ci sono proprio dei trattamenti chimici e quant'altro che poi non la rendono più un prodotto di per sé naturale, ma qualcosa fatto dall'uomo. Ma marijuana invece alla fine la prendi, la pianti, quando è finita, la secchi, la fumi. Cioè, per esempio alcuni allucinogeni non danno dipendenza. Cioè... Beh, ma ci sono anche molti funghetti che per l'appunto sì. Uno li prende e per un'ora non esiste più, poi ritorna in sé. Tra l'altro adesso stanno usando l'ecstasy per curare delle malattie. Delle mini dose di ecstasy per curare la schizofrenia, forse. E anche la depressione cronica. La sì, depressione è arrivata a livelli cronici, che neanche più l'erba fa niente. E praticamente cosa succede? L'ecstasy, in piccole dosi, praticamente ti dà una specie di scossa chimica nel cervello, e lo stanno studiando in America, e con questa scossa chimica nel cervello, se vi mette in moto qualcosa, prende il tuo cervello, ricomincia a produrre delle sostanze che non venivano prodotte, per cui eri depresso o quant'altro. Quindi in realtà anche le droghe più pesanti, nella giusta dose, per motivo terapeutico, vengono utilizzate. E in realtà, secondo me, anche le droghe più pesanti, fossero in un ambiente più controllato e legalizzato, sicuramente sarebbero meno devastanti. Sicuramente, anche perché comunque sia sarebbero magari non tagliate con topicidi, con cose un tantino nocive, più nocive della sì, ma anche poi chi spaccia il proibizionismo è il primo che ti dice, poi la prendi e chissà con cosa la tagliano. Proprio per questo voglio che diventi legale, perché almeno so con cosa la tagliano. E la droga è qualcosa di magico, e io ogni tanto mi sveglio al mattino. Ok? E ti droghi? No, è un pensiero. Mi piacerebbe che mi diagnosticasse una malattia mortale che mi uccide dentro 6 mesi. E così sarei libero dalle responsabilità, sarei libero dal mio futuro. E in quei 6 mesi vendo tutto, mi assicuro che Ottone sia in mani buone, quindi 2 mesi di preparazione, e per 4 mesi partirei in un viaggio all'estasi e alla scoperta dei miei sensi con droghe, prostituzione e tutto ciò che... E sarebbe, penso, e vivrei, se succedesse davvero, vivrei più in quei 4 mesi che in chissà quanti anni di questa valle di lacrime ancora mi attendono. Sì, ma poi una volta che forse sei strafatto, anche tu curarti, cioè, strafatto di tutto, pieno di puttane, poi vai a fare un giro su Anima TV. Sì, ovvio. Basta che ha lo sfondo dietro con le nuvolette. Vedete? Io sto per morire, ma non importa, perché da semidio ho trovato la luce. Devi anche ridere un po' da solo ogni tanto, come quello. Vedi, punto che stavo fatto canne, crack, tutto. Sì. E vorrei viaggiare. L'unica cosa che devi dire di non fare è ridere. Amsterdam. Farei Amsterdam, America, Giappone, droga, sesso, droga e sesso. E se poi invece non muori e diventi come Benson? Ma no, mi hanno detto che dopo 6 mesi muoio, sicuro. Sicuro? Punto. No, no, il dottore mi ha detto, guarda, sono sincero con te, 6 mesi top schiatti. O ti proviamo a curare, però è una merda, oppure cazzi tuoi. Cazzi miei, mi godo quei 6 mesi, non voglio sprecare magari 2 anni in un ospedale. E ci pensavo, te lo giuro, ero lì, dicevo, minchia, mi piacerebbe. Sarei libero dalla routine che mi intrappola la vita ogni giorno. Sarei libero da tutto, dalle responsabilità, non... Che bello. La società che mi obbliga a dover coltivare un futuro non avrebbe più peso su di me, anzi mi incentiverebbe a comportarmi come voglio comportarmi, perché a volte mi sento come se ormai ho 30 anni, no? E tu mi capisci. Non mi ci far pensare. E penso a come tutto è strutturato in modo che io debba avere questo futuro, il futuro di qua, il futuro di là, che poi devi fare questo, devi fare quello, non voglio fare niente. Cioè, onestamente, il contributo massimo che voglio dare al mondo è imporre la mia presenza agli altri, ma non per gli altri, perché piace a me. Io non voglio dare nessun contributo a questo mondo, che forse per me butterei le atomiche e resetterei la razza umana domani. E niente, quindi questo è il mio pensiero sulla vita. Siamo, e vedi, parlando di droga si parla sempre di queste cose. Già. Un viaggio dentro Locke. In tutti i sensi, siete... Gli ho sentiti, scusate. Se parli di viaggi dentro Locke, a quel punto si può anche parlare di porno. E Morris è lì. Perché? Perché sei sempre Morris eccitato? Questo è il piede di Morris, che mentre parlavo io stava scendendo. Questo e è stato poi... zitto, la messa si è liberata. Porno! Boom, boom, boom! È tornato. Diciamo la parola porno! Oh, porno! Allora, dopo facciamo un viaggio dentro Locke. Morris, non ti preoccupare. Potrei esplorare ogni anfratto del mio animo e del mio retto. Ma si ferma anche Danda? Eh? No. Non lo so, perché devo andare via. Infatti, ragazzi, questa puntata la facciamo durare 10 minuti in meno, perché adesso facciamo il post-show come al solito. Però Danda domani si sveglia alle 5 perché deve andare a fare un concorso di bellezza. Ah, non è vero. Adesso vi raccontiamo. Teoricamente va a fare Miss Maglietta Bagnata. Miss Maglietta, Maglietta Bagnata. Porno! Mi... Porno! Porno! Quindi, comunque, ora andiamo nel post-show, facciamo vedere altri porno a Danda. Non vi preoccupate, preparate suggerimenti. Se l'episodio vi è piaciuto, lasciate un like. Episodio atipico, tanti episodi diversi stiamo facendo, ma tutti bellissimi. Un po' di introspezione all'interno di Locke, che è sempre interessante. Quindi rimanete sintonizzati, Se state guardando la puntata registrata, il post show sarà presente anche su YouTube, quindi potete vederlo successivamente, e se volete partecipare, però l'unico modo che avete è ovviamente guardarci dal vivo. Quindi donate, dateci tutti i vostri soldi. Io sono Locke e questo è stato il Podcast Qualunque. Ciao a tutti, ragazzi. Okay. C'è stato un momento. No, vabbè, vi ho lasciati male, voi vedete come la cavavate. Ah, ciao a tutti, okay, ragazzi, per chi ci ha seguito, grazie di averci seguito di nuovo. Questo è un saluto giustamente a chi guarda la versione registrata, e per chi invece ci segue ancora, noi staremo qui ancora un pochettino, poi come ha già detto Locke, purtroppo Danda deve andare via perché domani... Ho questo concorso... Boh, o forse le immagini che ha visto prima, boh, sì, forse ha fomentato... Voglio andare a casa a piangere. Hanno fomentato qualcosa, comunque non sì, si sa. Comunque, grazie ancora per chi ci ha seguito e grazie ancora per chi seguirà la versione registrata, e alla prossima volta. Un ciao da Morris... E questo ce l'ho da fare. Okay, dai, dai, io anch'io. Ciao, ciao, ciao, Danda, ciao, ciao. Ciao. Grazie mille, ragazzi. Vi vogliamo benissimo. Benissimo, sì.